ti do la mano e crepi tu e tua madre, non preoccuparti. Il numero di questo bastardo, 243364, fatelo squillare tutta la notte. Ma lo vedi che tua madre va a fare marchette, lo vedi, froscio, drogato, che non sei altro. DROGATO! Lo faccio squillare notte e giorno, hai capito? Vedremo quella bagassa, ma tu hai sentito le banche, hai capito?